In ricordo di Giorgio Gaber. Quasi 10 anni fa moriva uno degli artisti italiani più amati. Radio 24 dedica una serata speciale a Gaber venerdì 9 novembre. In diretta dalle 21 alle 23, amici, critici musicali e alcuni dei 50 cantanti che gli hanno dedicato il CD per Gaber Io ci sono. Ma io ci sono, io ci sono. In anteprima, i brani interpretati da questi grandi artisti. Io come persona ci sono ancora. Gli ascoltatori possono intervenire all'800 24 00 24. Sentimenti ci sono ancora. In ricordo di Gaber, venerdì 9 novembre alle 21 su Radio 24.